Yeah. Ooh, yeah. Blackout, ooh, Records, yeah. 2009, bomboletta con Zobot. Ehi, fatti trasportare uomo, se bene segui il suono, se sale il ritmo dopo il viaggio è tutto buono, senti che ci sono e che mi piace sbarionare, il ritmo mi accompagna, almeno non mi sento solo, chiudo tutte le porte a chiave, dopo alzo la musica, lo sai che in fondo a me è così che mi piace viaggiare, e dopo mi lascio trasportare, la mia mente vola, dove nessuno la può disturbare, evito i problemi, e poi per essere sinceri, adesso sto cercando momenti sereni, qualche sorriso che mi faccia pensare ad altro, dimentico pure lei che vorrei mia soltanto. Vedi che io pure senza una lady ho sempre sotto qualche beat per tenermi in piedi. E cosa credi? Che il mondo in cui sei nato è bello solo per quello che vedi. Sai, non siamo nati ieri, ma è una questione di pigrizia, e noi ce la ridiamo in faccia a voi bruciando rizla. E bomboletta se la pizza, tanto sa che passerà, e ogni problema lo ammortizza. Sole che scaldi la mia anima, ti prego non sparire, resta dentro me. Sole che salvi la mia isola, liberami dal male, portami con te. Nel buio mostrami la via, la pace e la serenità. Accendi ogni melodia e resta qua, e resta qua. Sole che scaldi la mia anima, ti prego non sparire, resta dentro me. Sole che salvi la mia isola, liberami dal mare, portami con te. Nel buio mostrami la via, la pace e la serenità. Accendi ogni melodia, yo. E resta qua, e resta qua. Baby, affacciato al ponte 10, guardo il mare, c'è il sole sulla mia faccia, ma dentro sento più pace, sento la strana brezza mi sta a sale. Un altro viaggio ci separa, ma poi ti potrò incontrare. I giorni passano più lenti se ti metti a contare, ma solo una sensazione se il tempo rimane uguale. Resto qui ad aspettarti, le mani in tasca mentre fumo, tolgo un mese al calendario appeso al muro. Mentre stringo le tue mani alle mie mani, penso a te, ai tuoi capelli castani. Ora che siamo lontani, sento il sapore dei tuoi baci, si allunga la mia ombra, ora che il sole tramonta, buonanotte a domani. Sole che scaldi la mia